male. Se lasci fare Orn dice tutto quel che vuole. Ok, voglio bocca, tette, culo e figa. E per le altre cose non basta una riga. Quindi se ne parla pure se la voglia è poca. In Italia c'è la moda di parlare della coca. Ok, questi qua sono poveri italiani che guardano la TV, vanno fa l'americani. Orn, tu però sei un rapper italiano. Rapper già non è un vocabolo non strano. Un rapper italiano non ti sembra strano. Allora anche tu vuoi fa l'americano. Ma c'è una differenza e non lo dico a sfregio. Tra copiar rap e copiar peggio. Un nuovo flow e una nuova metrica. Ho ancora molto da imparare dall'America. Picchiato qui con casse rullante. Se te picchiamo noi le batte sono tante. Il tuo suono fa ratatatata. Il nostro suono fa. Se hai sentito bene è papo una mitraglia. E che yes divampa come fuoco sulla paglia. Risolvendo i problemi siamo sempre al top. Ve famo il culo a fette e lo gocemo sul free top. Le merde sono asse quindi carne suina. Nunte su pizza c'ho il gergo da cucina. E con le donne non ci vuole bon ton. Se becco una donna io gli faccio Orb le fighe stanno della. E perché io non so. In macchina si scopa e il vapore che si crea. In fissa per la figa quando vengo dico yeah. In fissa per la figa come tutti e beh. La faccio bagnare per nuotata. E quando c'ho la voglia di spaccare. Hai visto che combino? Se mi lascio fare prendo questi suoni da dei giochi old school che fanno la storia come Tupac Shakur. E nel 96 quando morì Shakur uscì GTA 2 ed è di mare questo è il blu. Nel 96 avevo 6 anni e i miei separati erano da anni. Mi iniziai a preparare il grande botto che arrivò nell'anno 98. Quell'anno fu davvero fatale. Mio padre mi disse che non c'è Babbo Natale. Queste sì che sono presa male. Non pensa a Natale mai fra in ospedale. Varie cose da pensare ed è paradossale. Chi ha Babbo Natale, chi ha il babbo in ospedale. I paradossi sono molti e qui non si discute. Chi muore per salute, chi col paracadute. Chi muore d'overdose drogandosi alla festa. Chi esce di casa e becca il fuori testa. D'altronde anche a te potrebbe capitare. Se incontri Orb e lo lasci fare. Tanto che ne sai che succede fino in fondo. Chissà quanti altri Orb ci sono su sto mondo. E li batterò finché mi batte il cuore. Pure tra mille Orb vorrei essere il migliore. Io sono Orb dell'HKS. E per mia natura le mie rime sono spesse. È un problema tuo se non ci credi. Sto qui e lo dirò finché sto in piedi. Ho l'arrembaggio, non mi puoi fermare. Farò tutto quello che voglio fare. Sperando di far meglio, voglio continuare. Mi viene tutto meglio se mi lasci fare.